40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. 40 hits. Fuori Napoli, è una giornata bellissima di sole, qua con me c'è Umberto, c'è Fiore in studio, saremo insieme a sentire 40 brani più richiesti da voi questa settimana on Radio Tour The Moving Station, e qua c'è proprio un sole che spacca le pietre, solo che qua a Barcadore è tutto sabbia, c'è un venticello che porta la freschezza del mare, l'ombrellone che fanno armonia con questo vento, le spiagge è pieno di corpi abbronzati, questo ragazzi è proprio un descrizione di un attimo, e con questo lanciamo i Top 40 con Tiro Mancino al numero 40. Still having fun, e come uno non si può divertire, beh, questo primo sabato di agosto siamo sulla spiaggia, qua dietro me stanno facendo la palestra ballata, perciò sicuramente tutte loro sono having fun, e voi dovunque che siete, spero che pure voi siete having fun, noi vi accompagniamo fino alle 17 con i 40 brani più richiesti da voi. Al numero 39 questo era Eagle Eye Cherry, al numero 38 troviamo il grande Max Pezzagli con gli 883, la regina delle celebrità. Ci sono i Love Connection, e ragazzi lo so che fa caldo, però è vero, è impossibile resistere a ballare a questo pezzo, e poi la bellezza è che questo è il numero 37, il che vuol dire che abbiamo 36 altri brani da ascoltare, da farvi ballare questo sabato pomeriggio, che piacere, però prima facciamo una piccola pausa, torniamo con House of Glass and Disco Down, però pubblicità. S-S-P. Wanna boogie tonight, wanna disco down till the morning light, voglio ballare fino alla mattina, e non dovrebbe essere tanto difficile soddisfare questa richiesta, visto che è sabato sera stasera e tutti quanti saranno a ballare. Questo sono i House of Glass with Disco Down al numero 36. Poi al numero 35, One Place Above Them, troviamo un uomo storico proprio, stiamo parlando di Santana, e suo ultimo album Supernatural ha venduto 13 milioni di copie, il quale le fa uno tra i top 10 album mai venduti. E poi la cosa incredibile è che lui ha una carriera che dura più di 30 anni, no? E questo album che è uscito l'anno scorso già conta per la metà di tutti i suoi album venduti. Proprio incredibile questo. Al numero 35 troviamo Santana con Corazon Espinado. Un miracolo, e che miracoli gli servono? Voi l'avete messo al numero 34, che a me sembra già una cosa buonissima, perché questo bel brano ci fa ballare, è una cosa che di sabato non c'è altro da fare. Come si diverte? Al numero 34, Fragments Miracle, al numero 32, poi al 33, anzi, troviamo il Luna Pop, però prima facciamo un piccolo pausa. Radio Tour, The Moving Station, the top 40, la classifica dei brani più richiesti da voi. Al numero 31 si sente Bumblebee with Crime of Passion, e poi mi sembra giusto, praticamente la passione è una delle cose dell'estate, fa caldo, fa bello, eppure tutto il sangue bollisce, magari il passion è dappertutto. Piccola pausa per noi, torniamo con Mariadele. Al numero 30, number 30 nella classifica dei brani più richiesti da voi, so ancora di te, Mariadele, io non ti conosco, però ti ammetto, anche io vorrei sapere più di te. E agosto ragazzi, il 5 agosto, e dicono che in agosto non c'è molto da fare oltre che il mare, però invece c'è da fare. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Roberto Barone, domenica 6 agosto dalle 9 alle 22 al centro commerciale Le Porte di Napoli, con i saldi dei suoi 70 negozi e le ricche offerte dell'Ipercoop. Centro commerciale Le Porte Nuove di Napoli, uscita Asse Mediano, Casalnuovo o Ecera. In tour con il Calcio Napoli fino al 6 agosto, collegamenti in diretta da Brusson nell'incantevole Val d'Aosta, in Val d'Aosta. Regalati una vacanza fatta di relax e aria pulita con le tue squadre del cuore. Per informazione 0125 300 240 oppure infobrusson@libero.it. Il ritiro del Calcio Napoli quest'estate è a Brusson. Radio Tour in Tour. Chiama 081 790 1411. Meet again, questi sono i Gaia al numero 28 sulla classifica dei brani più richiesti da voi. Non ci incontriamo mai più, dice questo, però praticamente non è vero. Se volete incontrarci basta venire al Lido di Barcadoro, dove noi stiamo trasmettendo fino alle 17 stasera o questo pomeriggio. E intanto siamo in un cabino molto bello qua, dove picchia il sole, però io sono coperto perché purtroppo quest'estate, essendo irlandese, mi sono scattato un po'. Vabbè, questo è il piacere di abitare in Italia. Al numero 27 troviamo l'Elisa con Gift. sia Lisa, e questo signorina adesso è molto impegnato a fare concerti per promuovere il suo ultimo album Azeel's World, che i critici con quale hanno paragonato a Bjork, e infatti c'è la similanza, però è molto indebolito pure questa bella voce di Lisa. E a voi piace perché l'avete messo al numero 27. You're listening to the top 40 hits as requested by you on Radio Tour The Moving Station. Saremo insieme fino alle 17, il che vuol dire mancano 2 ore, quindi controlliamo un attimo l'orologio. Lady 6 sulla classifica, sulla vostra classifica, richiesto da voi. Io sono Fergo Cavna, con me qua sul Lido Verco d'Oro c'è Umberto a fare la regia, e in studio c'è Fiore. Saremo insieme fino alle 17 con il Top 40 più richiesto da voi. E questo è Whitney Houston, però purtroppo c'ho sempre brutte notizie per Whitney Houston. Non lo so, quando è che posso dare un bel notizia a proposito di lei? Adesso lei e suo marito Bobby Brown sono indicato dall'Associazione per tutela di minori, il Child Welfare Services di New York, che una vicino di casa è un po' preoccupato, ha telefonato a loro per fare il controllo. Speriamo bene per Whitney e i suoi figli. Qua c'è anche George Michael che fa backing vocals al numero 26. Andando avanti al 25 troviamo Mi cago en el amor con Tonino Caretone. Position number 2, number 24 sulla classifica dei brani più richiesti da voi. E le settimane scorse vi ho raccontato il fatto che Britney Spears e NSYNC si sono messi insieme per fare un po' di pubblicità per McDonald's. Praticamente un'altra catena internazionale di fast food ha risposto, ha reagito e ha preso i Backstreet Boys. I Burger King hanno chiesto a Backstreet Boys di girare un pubblicità per loro, il quale hanno fatto a Toronto in Canada, e poi sponsorizzeranno, you know what I'm trying to say, sponsor their autumn tour, il tour autunnale della band. Quindi Backstreet Boys and Burger King insieme per i hamburgers. Che pubblicità. Quindi allora siamo arrivati al numero 23, dobbiamo diventare molto forte. Let's get loud with Jennifer Lopez. Loud al numero 23. E praticamente sapete tutto che Jennifer Lopez ha il sedere più bello in pop, no? E praticamente tutti quanti a guardare questo bel sedere di Jennifer Lopez. E lei ultimamente voleva fare un massaggio, però suo fidanzato Puff Daddy ha detto: no, nessuno può toccare la mia ragazza sul culo, quel culo è mio. Bene, bello questo Puff Daddy. Allora facciamo una piccola pausa e torniamo con i French Affair. Ta-da, the sound of the summer here on Radio Tour, the moving station. The French Affair with My Heart Goes Boom al numero 22. There, that's the French, il francese per numero 22. Il che vuol dire che mancano 21 brani. E al numero 21 troviamo i ragazzi californiani, proprio i ragazzi del spiaggio. Stiamo parlando del Red Hot Chili Peppers with Californication. Position number 21. Via al numero 20 sulla vostra classifica dei brani più richiesti da voi. E c'è un po' di polemica per questo brano, perché dicono i giornali che infatti è stato scritto con l'aiuto di Max Martin, la mente che sta dietro ai successi di Backstreet Boys, NSYNC e Britney Spears. Ma questo viene negato proprio da John Bon Jovi, che dice: questo è un brano che mi ricordo per forza grandi successi come Living on a Prayer o You Give Love a Bad Name. Max si trovava alla tastiera mentre lo croiavamo io e Richie. Lui non ha scritto una parola né una nota. Ecco, quindi It's My Life, proprio un canzone di Bon Jovi, al numero 20 sulla vostra classifica. Tra poco vediamo che c'è al numero 19 e Billy Moore, però prima facciamo la pubblicità, piccola pausa. Play the sound of the summer on Radio Tour, the moving station. I brani più richiesti lo voglio, il top 40. Questo è Billy Moore, Up and Down, e questo proprio è the sound of the summer. Dovunque che vado mi trovo proprio a ballare e a cantare Up and Down. Fa proprio male ai ginocchi salendo sempre up and down, su e giù. Comunque questo esercizio pure in agosto non fa mica male. Allora al numero 19 questo bel brano, al numero 18 troviamo un altro brano da ballare, I Wanna Stay, the Free Project. Sicca, il numero 17, un numero abbastanza fortunato per i gemelli diversi. Stiamo guardando la classifica dei brani più richiesti da voi on Radio Tour, the moving station. Ok, musica è proprio il motivo per cui siamo qua, e ancora mancano 16 bel pezzi votati da voi, richiesti da voi questa settimana. Facciamo una piccola pausa e torniamo con Moby al 16. Di Moby con Porcelain, siete voi che l'avete messo al numero 16, e questo, come sapete, è la colonna sonora della The Beach by Leonardo DiCaprio, questo bel film. E noi siamo on the beach, siamo al Lido Varco d'Oro, e ancora un'altra bella ora e di più di un'ora di bella musica che viene da qua sabato pomeriggio, il primo sabato di agosto. E questo Moby che abbiamo ascoltato adesso sembra che sia coinvolto di una storia d'amore con Callis. I giornali dicono che le due passano orate, molte ore in telefonate erotiche. Comunque Moby ha risposto un intervistato, quando era stato intervistato: ci sono casi in cui è meglio mantenere il mistero e l'ambiguità. Le eventuali telefonate erotiche tra me e Kellis appartengono esattamente ad uno di questi casi. Quindi non c'è il confermo se Moby è coinvolto in questa storia di amore o no. E Moby praticamente, immagino che lo sapete tutti ormai, che lui è un discendente dell'autore di Moby Dick, il signor Herman Melville, e perciò, siccome il libro più famoso è Moby Dick di Herman Melville, Moby ha deciso il suo nome d'arte potrebbe essere proprio Moby. Un bel scelta, è conosciuto in tutto il mondo per questo disco Play e Porcelain, avete sentito, al numero 16. Guardiamo un po' che c'è un passo avanti, bisogna frenare un po', andare al mare, c'è voglia, perché al 15 c'è Carlotta e Frena. E voi avete chiamato in tantissimo a richiedere questa settimana, perciò e si trova in un posto abbastanza alto nella nostra classifica. Allora vuol dire che mancano 13 brani da ascoltare, che ascoltiamo tra poco. Però dopo che sento Hello World mi viene sempre di salutare la gente, quindi voglio salutare prima le ragazze qua sulle spiagge che lavorano al bar, Anna ed Alaria. E poi devo salutare Eugenio che si trova a via Epomeo, ciao Eugenio. E poi è arrivato un messaggio dai ragazzi della scuola Cilea a Caivano. Ragazzi, non pensate alla scuola, siamo in agosto. Comunque ciao ad Enzo, Ciro, Mimo e Santo. E quindi questi messaggi bastano per il momento, perché andiamo avanti con la musica. Troviamo la bella voce di Carmen Consoli al numero 14, anzi al numero 13. E notizie che riguarda lei: ha suonato a Catania, da dove viene lei chiaramente, la settimana scorsa, è salito sul palco con lei Paolo Turci e hanno fatto un bellissimo cover di Baby Can I Hold You Tonight, canzone di Tracy Chapman che ricordate è stato pure rifatto da Boyzone. E Carmen dopo ha detto: bellissimo questo, Paola è stato proprio la mia prima amica nel mondo del spettacolo, e perciò ovviamente suono sempre con lei con molto molto piacere. Allora ok, guardiamo con la musica, però prima controlliamo un po' l'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Le 16. Consoli with Parole di Burro, proprio un bel brano questo della ragazza catanese che troviamo sulla classifica di voi, i brani più richiesti da voi, al numero 13. You're listening to the Top 40 Hits live from Lido Varco d'Oro. Io sono Fergal Cavana e in studio abbiamo Fiore e qua sulla spiaggia abbiamo Umberto e stiamo proprio godendo questo sabato pomeriggio sotto il sole di agosto. Ok, Carmen Consoli al numero 13, al numero 12 troviamo Paola e Chiara. Vamos a ballar. Numero 11 sulla classifica dei brani più richiesti da voi, questo è Tony Braxton, non era abbastanza uomo per me, e ovviamente non stavo parlando di Bon Jovi, perché quello è proprio un bel pezzo di uomo, è abbastanza uomo per tutti quanti, per 10 uomini vai. Perché sto parlando di Bon Jovi? Perché adesso abbiamo ricevuto un messaggio da Rita, grazie a Rita per tutti i complimenti, i bei complimenti che ci hai fatto, e ci ha chiesto se sappiamo quando che i Bon Jovi suoneranno in Italia. Allora l'unica data che è confermato finora ora il 10 settembre allo stadio Braglia di Modena, quindi andate a comprare i biglietti se siete fan di questo Bon Jovi, perché questo è proprio l'uomo del secolo. Vabbè, non esageriamo. Comunque siamo arrivati al numero 11 with Tony Braxton, il tempo di fare un piccolo riepilogo. Guardiamo al numero 20, proprio il Bon Jovi, eccolo, It's My Life. 19, Billy Moore, Up and Down. 18, Free Project with I Wanna Stay. Al number 17, Gemelli Diversi with The Musica. 16, Moby with Porcelain. Al 15, Carlotta con Frena. 14, Hello World from Bel Perez. Al numero 13, un numero sfortunato per alcuni, però per Carmen Consoli absolutely not, it's Parole di Burro. Al 12 siamo andati a ballare, vamos a ballar Paola e Chiara, e abbiamo appena sentito Tony Braxton with He Wasn't Man Enough, il che vuol dire dobbiamo vedere che c'è al numero 10, troviamo la bella Jessica Simpson, almeno è bella la sua voce, e questo è I Think I'm In Love With You. Top 40 Hits Number 10. 10, Jessica Simpson, I Think I'm In Love With You. E essendo qua sul Lido Varco d'Oro non è che vedo il coperto del disco qua. Prima ho detto magari è bella, la voce di sicuro è bella, e Fiore giustamente mi ha detto: oh, dal coperto del singolo è proprio una bella ragazza, una biondone. Jessica Simpson, il nome mi fa ricordare una cartone animata, chissà perché. Comunque al numero 10 noi prendiamo una piccola pausa e torniamo col numero 9, Lorenzo Dolce Far Niente. SSP. Pronove, that's Lorenzo, in arte Giovanotti, è dolce far niente, questo c'ha proprio ragione, e non c'è nient'altro di fare di un sabato pomeriggio al primo sabato di agosto, tranne stare sdraiato sulla spiaggia a fare niente, a prendere questo bel sole, magari a buttarsi ogni tanto dentro le spiagge, dentro al mare, sotto le onde, grande, grande, questo Lorenzo al numero 9. Al numero 8 fermiamoci un po' con Stop with John Segada. Number 8. Spears with Oops I Did It Again. E Britney è proprio nelle notizie in questi giorni perché praticamente si è coinvolto in una campagna per riabilitare il nome del rapper Keith Murray, un tipo che è stato messo in prigione per 5 anni dopo che li hanno accusato di assalto. Lui che si dichiara sempre innocente. E oltre a Britney Spears c'è anche LL Cool J e altri artisti del Jive, la casa discografica di Britney Spears, collegato a questa campagna. E speriamo bene se veramente questo è innocente, e speriamo di sì. Comunque, you're listening to the top 40 dei brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. Abbiamo appena sentito Britney al numero 7 with Oops I Did It Again. Facciamo una piccola pausa e torniamo col numero 6, che sarà Max Gazzei with L'Uomo Più Furbo Del Mondo. That's Max Gazzei, il grande italiano che si trova al numero 6, so la classifica dei brani più richiesti da voi. Allora, leggo un paio di messaggi che sono arrivati qua. Ci sono due serene bionde proprio davanti qua al sul Lido Varco d'Oro che dicono: siamo capaci di fare sorridere la vostra faccia stanche, un bacio dal sole di Varco d'Oro. E qua accanto a me vedo proprio Claudio che sta spadigliando. Chissà perché, Claudio, perché c'hai questa faccia stanca a questo punto? Non lo so. Allora, voglio un altro messaggio che è arrivato da Micina, che dice: è la prima volta che vi ascolto e siete meravigliosi. Grazie Micina, questo complimento non vanno male mai, non guastano mai, quindi scrivete i messaggi a noi se volete mandare i complimenti. Ok, allora stiamo guardando la classifica, abbiamo detto al numero 6 Max Gazzei, l'uomo più furbo del mondo. Al numero 5 cantiamo tutti quanti insieme. Siete pronti con la na na na na? Questo è Neja singing na na na na. Oh, e questo chiaramente dobbiamo dedicare a tutti gli studenti di inglese che chiaramente essendo agosto sono in ferie leggermente, diciamo. Però Alexia è proprio un brava maestra che dice: ti amo, I love you, una frase in italiano e poi una in inglese, perfetto. E in particolare questo è per Ferdinando, Claudio, Daniele e Armando che stanno studiando l'inglese o saranno a settembre. Comunque stiamo guardando la classifica, i brani più richiesti da voi questa settimana, e facciamo un piccolo riepilogo dal 10 al numero 4. Al numero 10 troviamo I Think I'm In Love With You by Jessica Simpson. Numero 9, Dolce Far Niente, Giovanotti and Lorenzo, la stessa persona chiaramente. Al numero 8, Stop by John Segada. Numero 7, Britney Spears, Oops, l'ho fatto di nuovo, I Did It Again. Numero 6, l'uomo più furbo del mondo è stato Max Gazzei e Neja singing na na na na na. E al numero 5, number 4, abbiamo appena sentito Alexia, ti amo, e tra poco, perché prima facciamo una pausa pubblicità, tra poco torniamo con il numero 3, Neck, Ci Sei Tu. S-S-P-P-O-O-T. Numero 3 sulla classifica dei brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. E polemica per Neck al momento, che si trova in Messico e ci sarà fino a metà agosto a promuovere il suo ultimo disc La Vita E. Praticamente questo vuole, come dicono in inglese, bite the hand that feeds, cioè mordere la mano che ti fa mangiare, no? Perché praticamente ricordate tutti quanti che Neck è esploso sulla scena nel 1997 con Laura Non C'è a Sanremo, quindi Sanremo, c'ha molto da ringraziare a Sanremo. Però ha detto ieri sera a Messico: Sanremo è una manifestazione che si mantiene viva grazie alle critiche e alla polemica. Ecco, allora questo è Neck che non lo so se si presenterà in futuro a Sanremo. Comunque a voi piace? Piace così tanto che l'avete messo al numero 3, il che vuol dire che mancano solo due brani su questa classifica che stiamo trasmettendo dal vivo, live from Lido Varco d'Oro on the beach. E magari se ci fosse il sole di agosto saremmo tutti quanti schiattati questo, sotto questo sole. Comunque un po' di nuvoli, speriamo che se ne va tra poco. Ok, al numero 2 troviamo un bel uomo in irlandese. Questo uomo irlandese una volta facevo, non lo so se è il caso di utilizzare il passato qua, però è il cantante di Boyzone, chissà se lavoreranno loro insieme un'altra volta. E la storia di questo Ronan Keating adesso è rivelato che aspetta un altro bambino, perché praticamente ha già un figlio che si chiama Jack con sua moglie Yvonne, che è una modella di 26 anni. Ronan Keating ha 23 anni. E come dice, io e mia moglie siamo felicissimi perché abbiamo saputo che ci sarà un fratellino o una sorellina per il piccolo Jack. Il che vuol dire che i bambini Keating diventeranno due. Perciò al numero 2 sulla classifica troviamo Ronan Keating with Life is a Roller Coaster. Top 40 hits. Who's with Life is a Roller Coaster, Ronan Keating al numero 2. Life is a Roller Coaster, la vita è una montagna russa, cioè su e giù, e vi ho appena dato la bella notizia che lui aspetta suo secondo figlio, e quindi la vita lì magari è un po' su per Ronan Keating, però purtroppo arriva anche la notizia che lui ha ricevuto un paio di minacce di morte, perciò molto giù per Ronan Keating, pure in qual senso, poverino. Praticamente dovevo registrare per Select, un programma di MTV, e la polizia l'hanno sconsigliato di farlo dentro un studio mobile allestito in zona vicino a Camden, il studio a Londra, perché questo studio aveva una grande vetrina e il leader di Boyzone era molto vulnerabile in questo studio, perciò l'hanno consigliato di fare. Comunque tutto è andato bene, speriamo che tutto andrà bene, c'è un certo feeling tra me e Ronan Keating, anche se non le conosco proprio, però essendo un connazionale, no, questo irlandese, dobbiamo tenerci insieme, perciò magari mi manderà un paio di 10.000 lire per ringraziarlo, no Ronan? No? Va bene. Comunque questo è il numero 2, un piccolo riepilogo dal 3 all'1, ce la facciamo, ci passa molto tempo con questo riepilogo. Al numero 3, Nick, ci sei tu. Al numero 2, questo era Ronan Keating with Life is a Roller Coaster. E al numero 1, chi potrebbe essere? È un gruppo che viene dall'Argentina e loro dicono che il loro successo è grazie a con un modesto 10% di talento, 40% di lavoro e 50% di fortuna. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando della bella Mosca Tsetsei e Para non verti mas al numero 1. Para non verti mas, questo sono la Mosca che vengono dall'Argentina per dare il sole al nostro pomeriggio, per darti, farci sorridere, anche se devo ammettere, lo ammetto con molto, molto, come si dice, tristezza, che sembra che la pioggia che ha beccato il nord dell'Italia sta arrivando qua, infatti è arrivato. Allora mo arriva la polemica per me, faccio un bagno qua sotto la pioggia o mi risparmio? Non lo so, forse intanto mi bagnerò comunque, quindi forse faccio il tuffo lo stesso. Allora questo vuol dire che abbiamo chiuso praticamente, siamo arrivati al numero 1, la Mosca con Para non verti mas. Avete sentito i 40 brani più richiesti da voi questa settimana on Radio Tour The Moving Station. Con me qua sul Lido Varcadoro c'è stato Umberto, grazie Ombi, e in studio c'è stato Fiore, grazie Fiore, e perciò io vi saluto, sono Fergal Kavanagh, vi do appuntamento la settimana prossima sempre alle 14 per la classifica dei 40 brani più richiesti da voi, quindi dovete chiamare in tanti questa settimana per cambiare questa classifica alla vostra piacere, è così che funziona. E domani, se siete vicino alla radio, ci sentiamo, vi parlerò di nuovo alle 17 di pomeriggio, dalle 17 alle 20. Allora ecco, il sole sta uscendo un'altra volta, sembra che è la mia giornata fortunata, mi vado a fare un tuffo. Ragazzi, vi saluto, grazie di tutto, alla prossima. Le 17.